Di dove sei? Di Belluno, ma vivo a Bologna. Ah, bella Bologna. Non sono mai stata a Belluno. Però la mia coinquilina stava con uno di Belluno. Ah, e come si chiama? No, però aspetta, forse non era proprio Belluno. No, però bella Bologna. Stando a Bologna ho smesso di mangiare pane. Stando a Bologna ho troppo tempo e troppa fame. Stando a Bologna anch'io pensavo di volare, ma qui a Bologna sto imparando a camminare. Stando a Bologna ho visto qualche bel concerto e ho anche fumato dentro un cinema all'aperto. Contando i giorni per il fine settimana, stando a Bologna normalmente ho incontrato una puttana. Quanta brutta gente, stando a Bologna in mezzo a splendide persone. E con il sole andando in giro per le piazze, o quando piove stando sotto al pavaglione. Stando a Bologna mi è aumentato il senso di realtà, passando in mezzo a chi un levriero chiede carità. Stando a Bologna ognuno fa quel che gli pare. Stando a Bologna ha già ammazzato milioni di zanzare. Vieni, tu vieni, tu vieni, tu vieni a Bologna. Si ride, si gnola, si vive, si sogna. Si sale a San Luca facendo le scale, si va a occupare un centro sociale. Vieni, tu vieni, tu vieni, tu vieni a Bologna. Si scrive sui muri ma non si vergogna. Mi fermo a pensare che qui c'era il mare e all'improvviso voglia di cantare. Giardiniere, un filippino d'autore. Stando a Bologna si è ridotto il mio riposo. Sarà per questo che mi sento nervoso. E poi Bologna non la sento ancora mia. In mille case in centro e giù in periferia. E se Bologna oggi mi piace un po' di più, perché Bologna è la città dove è nata la blu. Vieni, tu vieni, tu vieni, tu vieni a Bologna. Si ride, si gnola, si vive, si sogna. Si sale a San Luca facendo le scale, si va a occupare un centro sociale. Vieni, tu vieni, tu vieni, tu vieni a Bologna. Si scrive sui muri ma non si vergogna. Mi fermo a pensare che qui c'era il mare e all'improvviso voglia di cambiare. No Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose ho fatto. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì. Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene. Vieni, tu vieni, tu vieni, tu vieni a Bologna. Si ride, si gnola, si vive, si sogna. Si sale a San Luca facendo le scale.